Salta, un programma di e con Enzo e Marcello, alla parte tecnica Simone. Uni. Buon venerdì 22 aprile, everybody! Incredibile, signore. Amici incredibili. La 13ª puntata della 3ª edizione di Piazzalta su Radio F. E questo è ancora più inspiegabile, infatti. Che il problema si ripete reiteratamente di anno in anno. Settimanalmente, esatto. Con cadenza settimanale. Questa è Piazza Alta, inizia, lo so, lo dico sempre, ma mi piace pensare che il sia un weekend. Un fantastico weekend di Piazza Alta. Inizia male, però poi prosegue molto bene. Sta crescendo, un sabato fantastico e una domenica ancora di più. E stasera abbiamo degli ospiti fantasmagorici. Ma di questo ne parliamo un'altra volta. Cioè, facciamo un po' di musica in un altro intervento. Salutiamo Simone, che ovviamente va ad omaggiare un grande che ci ha lasciato in questi giorni. Sono stato triste? Un po', ma... Ciao Simone! Ciao! Stand in the way of love and we will smoke them all with an intellect and a savoir-faire. No one in the whole universe will ever compare. I am yours now and you are mine, and together we'll love through all space and time, so don't cry. One day all seven will die. They never grow old, and there will be no death. sound that's so sapete, New Generation. The new Power Generation era il gruppo con cui Power in The Generation. Con cui sono in quel momento. Piazza alta, sapete, piazza alta. Nemmeno, non diciamo più niente. Piazza. Prince, va bene, è andato. No, lo puoi dire. È andata così. Prince, perché? Un tributo che gli va dato. Ah no, perché ci ha lasciato in questi giorni. Grande artista. E ha un album del 92. Ok, va, piazza alta. Mentre noi siamo qui a Radio F dal 1976. Questo lo devi dire te. Allora, perché? Ma perché lasciamolo stare? Iniziamo dicendo che state appunto ascoltando Piazza Alta, lo state ascoltando su Radio F. Sulle 89.2 di modulazione di frequenza. Questo non lo sentivo di dire così dall'82 proprio. Ma anche in streaming su www.radiof.it. Scaricando le nostre app. Se siete molto social, abbiamo delle app che potete scaricare. Scrivendo Radio F esce l'app e voi uscitela. Appena l'avete scaricata ci sentite. Insomma. Ma potete anche dirci cosa ne pensate di Marcello. Io preferisco il vecchio modo quasi analogico, lo 0575648276, al quale risponderà immantinente Simone. Simone Leone. Oppure però anche con un più moderno WhatsApp o SMS al numero 392 490 800, che ormai vi sarà entrato nelle vostre testoline, perché Radio F praticamente in ogni dove, tutto il giorno, ad ogni ora del giorno, della e notte, ogni come. Tra l'altro siamo possibile contattarli, se no mi rimane qui, non riesco ad andare avanti. Tra l'altro siamo in due a condurre, ma a riprendere molti di più. Questo... E dopo saluteremo, anzi salutiamo subito Paolo e Valeria che stanno riprendendo la trasmissione. Tra l'altro la potrete rivedere montata da Simone sul nostro canale YouTube Piazza Alta, ma di questo ne parleremo dopo, sì. Mi sembra dopo. Ma vogliamo dopo anche accennare un po', introdurre l'argomento di questa sera? Io lo introdurrei, se proprio... Ma guarda, per linea di principio anche io sono... Allora, cari amici, stasera parliamo di un evento che è vero che si terrà a giugno, ma che già è in pieno fermento. E perché ne parliamo adesso? Perché i preparativi sono già iniziati e anche voi che ci ascoltate, bravo, dovete prendere l'appunto per la seconda domenica di giugno. Perché? Ma perché? Perché c'era... Ah, non lo sapevo, ma avete detto il 6 giugno. Io è da aprile. È da aprile che lo se diciamo. Se te lo segni, ma mettiamoci una comunione, pazienza, vai a Zarapino. ho già detto di che si tratta. Allora, siamo qui e stiamo parlando di un evento, tra l'altro una rievocazione storica, esatto, che perde le sue origini nella notte dei tempi, poi di questi tempi è sempre un po' notte. Però quindi... qui la genialità, a Civitella in Valdichiana hanno unito il moderno all'antico e hanno inventato il Sarapino. E io direi, Enzo, se sei d'accordo, facciamo un saluto e li facciamo sentire in voce i nostri ospiti e poi ci buttiamo dopo un brano a parlare e a raccontare il Sarapino. Allora, salutiamo i nostri ospiti di stasera, eminentissimi direi. Chiaro, che sono Marco Balò, che è il referente del comitato organizzatore. Ciao Marco, buonasera. Fabio Corradeschi, che è il custode e ci dirà poi che cosa custodisce. Ciao Fabio. E Tiezzi Daniele, che è un cofondatore la memoria della nuova, del nuovo corso Sarapino. Del Sarapino. Ciao Daniele. Allora, abbiamo sentito le voci. Urge. Perché poi... Urge. Simone, allora devi urgentemente urgere. Urgi? Urgiamo, che? Urge. Like you know, you look well, singolo How Do You Do It che precede l'uscita dell'EP, caro il mio amico Marci, Forest, e lei è la... no, non la, è Giungla, perché è la Giungla. E tra l'altro lei sarebbe Marina Drake, Emanuela Drake. Questo è bellissimo. Te l'ho fatto dire tutto d'un fiato perché ero sicuro che da qualche sarei parte arrivato. Emanuela Drake suonava anche in un famosissimo gruppo, ma lasciamo perdere. Veniamo alla serata di questa sera. Non capisco perché continua a disannunciare io. Ma perché non verrebbe bene come se lo facessi io. Come maniera. Dicevamo poc'anzi, siamo qui a compagnia parlare dei nostri amici del Serapino. Ah, il Serapino di Civitella in Val di Chiana. Civitella in Val di Chiana, che tra l'altro pare che sia, vi do una curiosità che voi non saprete, è il comune più esteso in termini di lettere d'Italia. È in assoluto il più lungo. Io sono... è una curiosità. E con questo finisce Piazza. Ci vediamo venerdì prossimo. Tutti così. Allora, io vorrei iniziare a parlare un po' del Serapino. Ora sto tutta la sera con no, ma te lo do per certo. Era su... Bravo, su Wikipedia. Su... Bravo. No, era su una domanda enigmistica. E invece siamo qui per parlare con Balon Marco, Coradeschi Fabio e Tiesi Daniele del Serapino. Il Serapino... Quante cose ci sarebbero da dire sul Serapino? Io quasi punte, però sicuramente chi è il primo che ci vuole cominciare a introdurre questa manifestazione? Che io posso sono convinto. Provare a cominciare. Allora, bene. Daniele, allora intanto facciamo così per capirci. Molto probabilmente alcuni di quelli che ci ascoltano non hanno idea di che cosa stiamo parlando, sì che facciamogli capire proprio in che mondo entriamo. Ok. Cos'è il Serapino? Ok, allora iniziamo dall'impronta e quella del Saracino, naturalmente. Quindi e lo richiama il nome, esatto. Esatto, quindi si parla di un muratto, della lancia e dei cavalieri. E qui arriva invece la genialità. Esatto, arriva la genialità, la sorpresa, diciamo il tocco di modernità che è l'ape, che rappresenta al posto del cavallo, che non a caso si chiama lo cavallo d'acciaio in termine, in termine tecnico. Questa è la manifestazione che è nata nel 2011, rinata diciamo da quelle che erano le ceneri di una vecchia manifestazione che veniva già fatta negli anni 50 senza quel, diciamo, quel, lo spirito di competizione che c'è oggi, nel quale i quattro rioni si sfidano. Al tempo veniva fatta così in modo molto goliardico tra le persone del paese che così una tantum durante gli anni si ritrovavano per questo insomma per questo evento così folkloristico. Sapreste dirmi comunque chi è che ha avuto la prima volta l'idea? Si perde la notte nei tempi, tant'è che ci sono alcune diciamo così dette teorie che richiamano al Serapino prima ancora della guerra, quindi anteguerra. Però non abbiamo naturalmente notizie certe di questo, soltanto abbiamo alcune indicazioni e delle fotografie naturalmente a ricordo di quelle che sono state gli eventi degli anni 50 e 60. Quindi collocabile tra il Big Bang e la e oggi. Diciamo che su giù abbiamo dato una connotazione temporale alla manifestazione piuttosto ampia. Vedere un po' i nostri giorni. Però potrebbe andare. Okay. E spieghiamo quindi, le origini abbiamo detto erano più che altro goliardiche, tanto per stare una giornata insieme o qualcosa del genere, mentre oggi come funziona? Intanto hai parlato di una gara, quindi tra rioni. Esatto, rioni. Ecco, i rioni, scusa Enzo, volevo capire subito, questi rioni come vengono divisi? Per appartenenza, per territorio, allora, per cuore o simpatia? Anche questo è molto interessante perché... allora aspetta, scusa, se è interessante la domanda la faccio rifare a Enzo. No, perché lui... ecco, questi rioni come vengono eccetera eccetera? Allora, l'aspetto interessante è che questa suddivisione del paese in rioni era risalente a questo periodo, diciamo probabilmente degli anni 50 e 60, ma non sappiamo bene da chi era stata fatta e soprattutto per quale scopo, proprio perché nel Saracino, insomma Serapino così si voglia, del tempo non c'erano i rioni, appunto questa suddivisione, quindi questa suddivisione in realtà non sappiamo bene per quale motivo sia poi stata è uscita fuori, però abbiamo anche i colori stessi erano già insomma in qualche modo, cioè voi ve li siete ritrovati? Quanti sono i rioni? Ora diteci quanti sono, come si chiamano e i colori. Ok, allora i rioni sono quattro e sono San Francesco, La Torre, Porta Retina, Porta Senese. Scusa, ogni tanto Marcello ha l'antistress, capito? C'è il nostro maiallino di compagnia. Allora ridiciamoli, scusate. Ok, allora San Francesco, Porta Retina, Porta Senese, la Torre. Ecco, Porta Aretino e Porta Senese potrei anche immaginare che danno sulle rispettive strade che portano a Siena o ad Arezzo, immagino. La Torre, credo, che ci potrebbe essere. C'è la Torre. San Francesco richiama la zona di San Francesco, via San Francesco, okay. Ed è la zona dove c'è la chiesa, la statua di San Francesco. E... perfetto. Ci vede la dice in San Francesco. In San Francesco. È una parte determinata. E i colori di queste quattro contrade? Allora, rosso-blu sono San Francesco, giallo-nero Porta Aretino, bianco-verde Porta Senese e la Torre rossa. Perfetto, io direi che abbiamo dato, Marcello, correggimi se sbaglio, non lo fare, diciamo che abbiamo dato una idea molto generale, però sappiamo intanto dove siamo. Abbiamo fatto una collocazione storica, temporale un po' vaga, e però abbiamo capito che ci sono quattro rioni che si contendono un ambito. Che cosa? Che cos'è il premio? Allora, che viene? Il premio sulla falsa riga di quello che è il Saracino di Arezzo è la lancia d'oro che da noi si chiama il Retribuent. Scusa, e qui farei una puntata a parte. Perché? Cos'è? Cioè, perché Retribuent? Mi richiama qualcosa di francese. Richiama qualcosa di latino. Ci siamo volevi fare il bravo. Francese viene. Mi richiama il latino, bravo. La Languedoc. Ci siamo inventati questo termine. Che bravo, io vengo a stare a cimitero. Così come ci siamo inventati tantissimi altri termini di cui poi parleremo, assolutamente, perché qui c'è un glossario, ma non ci bruciamo assolutamente quello che abbiamo da dire. E comunque, cioè, e quindi inventarlo proprio di sana pianta o c'è una... No, è di sana pianta, inventato di sana pianta, semplicemente volevamo dargli una connotazione più antica, latina, e ci siamo che trovati bello, diversa la lancia una sporca imitazione. Siete meravigliosi. Simo, mi dispiace, devi mettere un po' di musica, pazienza. Breve, quella breve. Let me be. Who, The Guess Who, caro il mio Marci, era il 1970, American Woman era la canzone, l'album, se vuoi te lo dico, ma non lo trovo. Incredibile che si mantenga ancora a memoria di questo. Guess Who, The Guess Who, omonimo. Stasera vai a sigla. Monosillabi, veramente. Ma bando alle ciance, continuiamo torniamo a parlare. Rapino. Una delle trasmissioni più avvincenti da quando Marcello è tornato in sé. No, a parte le battute, stavamo parlando con i nostri amici, ricordiamo i nomi, con Marco Balò, Fabio Corradeschi e Daniele Tiezzi, stavamo parlando del Sarapino. Abbiamo iniziato a capire che si svolge a giugno, che sono quattro rioni, eccetera, eccetera. Adesso... E la cosa si fa sempre più interessante perché cominciamo a entrare nel tecnico, proprio nel dettaglio della manifestazione e di come la tenzone, la singolar tenzone si svolge. Allora, tanto per avere un riferimento, si rifanno al saracino, ma la cosa meravigliosa è che al posto del cavallo c'è un'ape proprio. Marco, di che cilindrata si parla? Un'ape 50, rigorosamente. Quindi voglio dire anche con calma, nel senso, un'ape 50 non è che fa 150, insomma, tanto per... Quindi, ecco, ma l'ape com'è? Sarà, immagino sia tutta addobbata, adornata? Lo cavallo d'acciaio. La mala bestia, qualcuno. Direbbe altri. E quindi diciamo che è addobbata con delle stoffe, ricoperta, diciamo. Ma questa è di proprietà, per esempio, del Sarapino. Del comitato del Sarapino. Quindi questa viene usata due api. Una di riserva. Perché voi, si dice correte, no? Come si dice in questo caso? Sì, cioè, la carriera viene svolta da tutti i rioni con un'ape. Con un'ape, tre carriere per rione. E sono tre, ora entriamo nel tre carriere per rione. Queste tre carriere, perché a differenza di il Saracino c'è solo un cavaliere, invece qui abbiamo l'autista dell'ape. Che si chiama? Sterzatore. Potevi farlo in francese, però anche lo sterzatore. Mentre chi è sopra con la lancia? Cavaliere. Il cavaliere, perfetto. Avendo tre carriere, avete tre sterzatori e tre cavalieri? O ogni rione ha uno sterzatore? Uno sterzatore. Sterzatore è sempre il solito per ogni rione. Però i cavalieri sono tre per rione. Sono tre per rione. Ovviamente tirano in maniera alternata, non consecutivamente. Cioè non lo stesso. Sì, certo. Fate una carriera e poi la seconda la fa l'altro cavaliere. Partono tutti e quattro i rioni con il primo cavaliere, poi partono i secondi, certo. E poi i terzi. E l'obiettivo qual è? Colpire i cinque. Colpire i cinque, cioè un buratto. C'è il buratto e il tabellone. Buratto, sì. Che ha il suo tabellone sul tabellone braccio. Che è simile a quello di Arezzo, ma non è uguale, non l'abbiamo cambiato. Bisogna colpire il 5. Mi sembra che hai i capelli castani. Bisogna colpire il 5, ovviamente. Dobbiamo fare più punti. Esatto. Quindi diciamo c'è la carriera che inizia con il cavaliere, lo sterzatore che guida, che prende velocità, e il cavaliere che punta il centro del tabellone. Ci prova. Però che succede? Deve mantenere una certa velocità. Ecco, ci parlavate fuori onda di una cosa caratteristica, di fotocellule stavate parlando, spiegateci meglio. Sì, c'è un cronometrista ufficiale che viene appunto chiamato... Della Federazione Italiana Cronometristi? Sì, lo chiamiamo per tre prove, diciamo fuori gara, per le ultime tre prove, la provaccia e poi il giorno del Sarapino, proprio per cronometrare i tempi. E ci sono delle fotocellule che ora non mi ricordo la distanza, ma comunque c'è una distanza ben precisa che nel passaggio dell'ape dà un tempo che... E quindi ha una velocità minima. Cioè, ci deve essere una velocità che non sia inferiore a... Esatto. Il tempo, diciamo, di percorrenza da una fotocellulata non deve essere superiore a un tempo stabilito che sono 2 secondi e 80. Il che vuol dire che stiamo mantenendo almeno una certa velocità. Questo perché altrimenti chi si avvicina al buratto, se va troppo piano, è più facilitato a colpirlo. Se non succede questo, la carriera viene annullata. Viene annullata, ma nel senso che non la ripete. No, zero. Ovviamente le lance sono lance tipo quelle del Saracino, né più né meno. Sì, sono le lance vere. E si possono spezzare? Si possono spezzare, se si spezzano si raddoppia il punteggio come al Saracino d'Arezzo. Però, contrariamente, quello che succede ad Arezzo, il rione è responsabile in qualche modo e deve ripagare la lancia. Quindi non sai se essere contento oppure esatto, no. Esatto, però perché diciamo sì, che sei contento perché vinci e per certo, ripaghi quelle 50, 60, 70 sì, euro di lancia che ne vale la pena. Per una vittoria la lancia deve rimanere il pugno però, se perché sia valido il punteggio e il raddoppio chiaramente. Ecco, dunque, immagino, ho visto che il cavaliere ha un abbigliamento particolare, medievale. Sì. Lo sterziere, sterzatore. Sterzatore, invece no. Sì, è considerato un cavaliere a tutti gli effetti anche lo sterzatore, quindi ha lo stesso abito del cavaliere. Che spettacolo. Comunque tutti i figuranti sono figuranti come costumi medievali. E infatti volevo fare un passo indietro, se lo vuoi dire tu. Anche perché prima della gara vera e propria c'è tutta una cerimonia, certo, in costume. Ci volete dire qualcosa? Cioè, quando inizia la manifestazione? Cioè, non è solo il giorno della gara, la domenica, oppure no, inizia prima, con la provaccia, diciamo. Esatto, infatti parlavi di prove e provacce, raccontateci un po'. La settimana prima inizia con la provaccia funziona come funzionasse la Cina, cioè i rioni provano e quindi è una gara vera e propria, ovviamente non vestiti, non in alto uniforme. E niente, chi vince la provaccia praticamente è quello che poi potrebbe vincere se la domenica successiva per cause di forza maggiore, vuoi il tempo, vuoi il Sarafino non si corre, chi ha vinto la provaccia vince il Sarafino. Ah, quindi perché molto diventerebbe un po' problematica rifarla un'altra settimana, spostare, non abbiamo mezzi. Certo, quindi diventa molto importante. E quindi diventa molto importante. Poi c'è il venerdì, precedente alla manifestazione, la cena provinziatoria. Okay. Che è la cosa forse più importante che a noi ci interessa noi, di più. Io tra l'altro si svolge nel castello di Civitella di sera, bellissimo, praticamente i rioni tutti insieme, cioè noi non facciamo quattro cene di rio, quattro cene provinziatori, facciamo un'unica cena con tutti i rioni al completo. Tra l'altro ho avuto la fortuna un anno di partecipare proprio alla cena. La location è bellissima, perché all'interno del castello d'estate è veramente bello. E poi forse una cosa anche questa fuori un po' dagli schemi, i quattro rioni sono tutti insieme che festeggiano forse da altre parti. Perché è inspiegabile questa cosa in generale. Ecco, che ci sia equilibrio e fraternità nell'organizzazione. Volevo fare un'altra domanda a proposito di prove e provacce, no? Ok, la provaccia è la settimana prima, sì, quindi vi mettete lì. Ma precedentemente avete occasione di fare ancora prove? Cioè, come lo individuate il cavaliere bravo? Fate delle prove anche segrete da altre parti? Sì, infatti qui prima quando parlavo del cronometrista ufficiale ho detto che si faceva delle ultime tre prove, perché comunque le prove si fanno tutto l'anno, da gennaio in poi almeno la prova al mese viene fatta. Sempre nello stesso luogo? Sì, viene chiusa la piazza, abbiamo chiaramente i permessi. E chiudiamo la piazza e facciamo 4 ore di prove, un'ora a rione. Immaginati un turista arriva a Civitella, città, e poi sta questo colapso. Sì, molto spesso ci sono turisti che fotografano perché portiamo in piazza il curato ufficiale, certo, quindi non allestiamo totalmente la lizza, però diciamo gran parte si riformula tutta. Certo. E in quell'occasione niente, facciamo le prove, il capitano, perché la formazione di rione è infatti dal capitano che appunto dirige in tutto e per tutto il rione, e dopo c'è i 5 cavalieri, perché uno è lo sterzatore, uno è la riserva e 3 sono gli ufficiali, okay. Poi c'è la dama, un paggetto e 4 armati che fanno la sfilata. Perfetto. Sì. Fermiamoci un attimo qui, qua, perché ci siamo fatti prendere, ma era normale. Abbiamo la reclam? No, abbiamo una. Simone ci fa cenno che è il momento di ascoltare. Ah, questo è che bello. Cosa? Non te lo posso dire. Può piacermi? Ti piacerà sicuramente. Buon ascolto. Vabbè, è seni pesanti e labbra rosse e la giacca a vento, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi, mentre la mano mi tenevi. Canta con me, tu mi dicevi, ed io cantavo di un posto che finanzieri e contrabbando, mi scaldavo i tuoi racconti, e mio padre sì, tu mi dicevi, quassù in montagna combattuto, poi del mio mi domandavi, ed io pensavo casa. Mio padre fermo sulla spiaggia, le reti al sole, i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie. Sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Io, se volete, la presento, ma insomma mi sembra inutile, lo dico? Lugano addio, ma Lugano addio, Ivan Graziani, era il 1977 e il disco era I Lupi. Dillo, perché è bene che si sappia. E come dice Simone nelle note, che l'altro, questo era facile anche da disannunciare. Sì, infatti, personaggio che, così come fortunatamente è successo a Rino Gaetani, meriterebbe un po' di un'importante rivalutazione, ma sicuramente l'avrà. E noi siamo qui anche un po' per... Radio F, 22, 39 minuti, Piazza Alta, ovviamente. 22 aprile, ricordiamo la nostra pagina Facebook, anzi le nostre pagine Facebook, quella di Radio F, certo, e quella di Piazza Alta, dove poi troverete anche il podcast di questa trasmissione. Ma siamo qui a parlare del Zarapino con i nostri amici, i nostri ospiti, Daniele, Marco e Fabio, ormai non dico nemmeno più i cognomi, siamo in famiglia, e stavamo parlando un po' di tutte le cose inerenti al Zarapino, che sono affascinanti, soprattutto per chi ne sa poco, e veramente ci sono cose molto divertenti. Ricordiamo come poter scoprire ancora meglio la vostra manifestazione tramite le vostre pagine Facebook, sono due praticamente, se lo volete. Ma il Zarapino oppure Guglielmino dei Rubertini? Anche questo. No, tra l'altro voglio dare un input che secondo me è importante, perché a me è anche servito per farmi un'idea. su internet ci sono anche dei video che possono essere visionati e che ci danno anche un'idea di quello che è il Sarapino, di quella che è la singola attenzione. Tra l'altro io sono rimasto affascinato di una cosa e vi faccio subito questa domanda: c'è un personaggio che a me ha affascinato, che è chi declama praticamente il punteggio che il cavaliere ha ottenuto dopo la sua carriera. L'Araldo. Che funzione ha l'Araldo? Siamo rimasti sul classico. Sì, esatto. Okay. Però ha un fascino importante. No, non si scopre niente di nuovo perché c'è una calarezza. Ma quando le cose sono fatte bene. Sì. Perché abbiamo preso il meglio da un po' da quello, un po' dall'altro, un po' dal padre. Ma oltre all'Araldo, che adesso ce ne parlerai, ci sono poi dopo, ho capito, altri personaggi molto importanti per la buona riuscita della manifestazione. Iniziamo dall'Araldo. Cosa fa l'Araldo? Beh, l'Araldo è quello che annuncia le carriere, le rioni, è quello che legge il punteggio, è quello che in caso di contestazioni, in caso di problematiche, in caso di penalità, appunto, informa, diciamo. Ma ecco, lui ha la funzione di giudice? No, lui semplicemente prende dai giudici quello che viene stabilito dai giudici, lo riporta, insomma. E quindi avete dei giudici? Abbiamo tre giudici, più ci sono i giudici di linea che sono quelli a terra, diciamo, perché questi giudici sono sul terrazzino da dove appunto l'Araldo declama poi il punteggio. E quindi ce ne sono vari, insomma, i giudici, diciamo, sul terrazzino sono quelli che giudicano il tabellone. Ah, una volta che viene colpito prendono la misurazione, esatto. Quindi. Ecco, loro sono sempre di Civitella o sono persone? Sono persone esterne la maggior parte delle volte, no? Sì, possono cambiare, ma però di solito ormai sono 2 anni sono sempre stessi. Esterni del paese. E volevo fare un passo indietro, poi dopo puoi fare tutto ciò che vuoi. Grazie, puoi. Marcello. Avevamo detto, no, volevo fare questa domanda perché le pagine sono due, abbiamo detto, una è Sarapino, le pagine Facebook, Sarapino e Saracino con l'Ape, oppure Guglielmino Ubertini. Perché? Perché è stato un vescovo di Civitella. Ah, ecco, no, perché io... Anticamente Civitella si chiamava Civitella del Vescovo. Perché aveva avuto un vescovo? Perché c'era la sede vescovile nel castello. Ah, ok. Qui si parla comunque del periodo del Medioevo. 1100. Quasi 1500. Non volevo dire, ma te lo zoppio. Esatto. No, perché ormai lo conosco. Non a caso nella sfilata c'è il vescovo. Ah, ecco, vedi. Vescovo bocca torta. Altro personaggio realmente esistito, non ci siamo inventati niente. Magister Raineurus, altro personaggio realmente esistito, insomma, che hanno fatto parte della storia del paese di Civitella e che hanno avuto notorietà anche fuori dalle mura del paese. Tra l'altro, prego, dimmi. No, abbiamo il famiglio chiaramente che si occupa del muratto, quindi del posizionamento del muratto, della targa, del cartellone che viene messo. Il famiglio. Come Arezzo ce n'hanno due perché hanno bisogno della carica, noi non abbiamo durato con la carica. La famosa famiglia allargata. La famiglia allargata, sì. Il famiglio allargata. No, tra l'altro, tutto quello che ci state dicendo, avete avuto anche la bravura, a mio modesto parere, di riportarlo in varie, chiamiamole brochure o comunque pubblicazioni. Io ho fatto anche, abbiamo postato adesso su Facebook la foto di una prima pagina di una di queste pubblicazioni, ma dove spiegate perfettamente quello che succede, anche con un'ottima grafica, così almeno facciamo contento Marco che la cura. E una cosa bellissima che abbiamo, ecco, la guida Sarapina, e in questa guida tra le altre cose c'è il glossario del Sarapino. Enzo, per chiudere proprio l'argomento dei personaggi che ruotano intorno e che hanno una loro importanza, perché si dimentica spesso il mezzo sul quale il cavaliere fa la sua carriera, no? In questo caso abbiamo l'ape, ma anche l'ape ha delle sue necessità. Bravo Marci. Ha i suoi bisogni. Da chi viene curata e seguita durante tutta l'annata l'ape? Dalla Pierre. Ora, dire ma perché è più fresco la Pierre durante l'annata e la Piscalco anche la Piscalco secondo me meriterebbe di venire solo a vederlo per conoscere la Piscalco, stringere la mano alla Piscalco. Cioè, e cosa fanno? Spieghiamo in poche parole a Pierre e a Piscalco la differenza. La differenza praticamente la Piscalco sarebbe quello che diciamo, aggiusta, cura l'ape durante l'anno, perché l'ape ha bisogno di essere nelle varie riguardata, certo. Deve essere in funzione, ovviamente. Dopo che poi guarda, dai ricostituenti. Scusa, mi è venuta una, la devo dire. Tra l'altro, tutta questa differenza non c'è, perché sia il cavallo che l'ape vanno con la miscela. Ecco, quindi la miscela, la biada dell'ape, com'è? Cioè, è una miscela particolare. Cioè, è al 2, questo voleva sapere. Ma sono previsti anche dei controlli? Ma anche l'ape è una sola, anti-ottani? No, perché l'altro l'ape è una sola, quindi va bene, okay. È uguale per tutti. Beh, è uguale per tutti. E invece dicevamo, la Piscalco fa questo, invece la Piere è quello che è la giornata della gara. È in piazza vestito in costume e si occupa del posizionamento dell'ape, aiuta, diciamo, il cavaliere a agganciarsi con la cintura, perché chiaramente abbiamo delle sicurezze, certo, da rispettare. Certo, certo. L'ape ha un roll bar che ce l'abbiamo dovuto costruire perché chiaramente per la sicurezza per del la cavaliere. Sicurezza, per la sicurezza. A proposito di questo, scusa, dico questa sciocchezza, ma... qua, durante la scena fa anche le pubbliche relazioni, no? La Pierre. Ma non sapevo, scusate, bellino. No, ma stasera l'ha detto poco, tra l'altro, rispetto alla media. Non mi date, ci vuole, ci vuole. Però volevo dire, poi dopo arriviamo a quello che avevo anticipato, il glossario. Voi, anche voi tre che siete qui ospiti, avete dei compiti, avevamo accennato. Il custode Fabio, sì. che cosa fa? Mi occupo, diciamo, delle stanze, delle nostre stanze, che si trovano nel palazzo museale, dove c'è sia la pinacoteca sia la sala della memoria. Abbiamo noi due stanze, una è la legnaia, che è la nostra sede, dove facciamo riunioni eccetera eccetera, e un'altra è la sala delle lance, dove abbiamo tutti i costumi e tutte le lance. In qualità di custode anche le chiavi, allora. Sì, le chiavi ce le abbiamo tutti, le chiavi ce le abbiamo tutti. Io, diciamo, sono il responsabile e basta. Quindi... E di quale rione sei? Io sono del rione della torre. Della torre. Che quest'anno però non sono un po' uscito, faccio una nuova figura che ancora non è nelle guide. No, è il giullare. Ecco, il giullino. Si chiama il giullino. Cioè, te sarai il giullare del Sarapino. Il giullare del Sarapino. Quindi il Sarapino è anche in divenire. Tra l'altro, secoli e secoli. So che stiamo sforando tutto, Simo, ma non importa, andiamo ancora avanti. Quello che sto notando è che la fantasia non vi manca, la voglia di divertirvi, nemmeno. Perché state trovando delle cose meravigliose. Mentre Marco, tu che ruolo hai? Sono il referente. Quindi, detta... Tutto e niente. No, non è vero, fai modesto, ma da quello mi giungono voci che sarebbe l'equivalente del presidente. Sì, va bene, certo. Ce lo siamo dati all'interno del comitato per avere una figura che perlomeno possa parlare e interagire con il rione. Giusto. Riferimento. Però, non... ho visto delle foto in cui non sei solo referente. No, sono anche il cavaliere del rione di San Francesco. Attualmente? Attualmente, ok. Sì. E infine... Io anche. Sei cavaliere? Siamo nello stesso rione. Ah, cavaliere, cioè abbiamo due cavalieri, e che hanno vinto 2 lance d'oro su 4, quindi sono conta tutto. Ma ti faccio notare, Enzo, che abbiamo i cavalieri, ma noi siamo Natavaro Torre. Fermiamoci qui, me lo segno, 2 lance d'oro. Simo, andiamo con un brano e ma poi... Su questo lo sorvoliamo, non c'è bisogno di... Finalmente! Un po' di rivalità, Dopo voglio sapere del palmarès. Assolutamente. Music! Could be it's gone from your eyes. I better realize. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Rise without a face. Such a human waste. Rise without a face. E questo è il mio idolo, Billy Idol. Billy Idol, Eyes Wide Out Face. Madonna, l'ho detto bene, non me ne sono accorto. Volevo chiedere scusa per questa pronuncia. Detto bene. Vabbè, l'ho detto meno peggio di tante altre volte. Stiamo arrivando. Anche lui è d'accordo. Ok, stiamo arrivando in fondo. Piazza Alta, Radio F, l'inizio del fine settimana. È l'inizio della fine. Buona scusa. L'inizio della fine. Più, più, più. E vabbè. Siamo arrivati purtroppo alla fine. Vogliamo dare Enzo, l'appuntamento l'abbiamo dato, no? Ma c'è un programma ben preciso. Sarapino il 12 giugno, c'è la gara e tutto quanto, ma inizia tutto qualche giorno prima. Qualche giorno prima. Il venerdì 10 giugno ci sarà la cena propiziatoria e mi fa piacere dirla questa cosa, dare questo appuntamento, perché dove si mangia di solito si sta anche bene. Anche si bene. E ci si diverte. E ci sarà anche la presentazione del Re Tribue. L'ho detto bene. Quindi, come avevamo detto prima, invece, come avevo detto prima, scusa, no, appunto, la scena in cui tutti e quattro rioni si incontrano e fanno questa scena. E questa scena che è fatta tutti insieme ci dà spunto anche, so che a questa cosa ci tengono molto i nostri ospiti, per dire qualche cosa relativamente alla manifestazione come un momento di aggregazione. Vero Marco? Sì, perché questa manifestazione ci è servita soprattutto a noi per, diciamo, ricompattare il paese, ma non perché era diviso, ma perché a Civitella siamo pochi e questa manifestazione ci ha dato l'opportunità di essere ancora più uniti e senza rivalità e senza, cioè noi diciamo sempre vinca il Sarapino, cioè, chi vince, l'importante è che la manifestazione venga bene e che noi siamo soddisfatti di questo soprattutto. Bellissimo. Siamo stati aiutati da tutti, dalla popolazione, ci danno la mano in tutto e per tutto, la Proloco, quindi siamo contenti per questo soprattutto. Molto bello. Molto bello. C'è il coinvolgimento di tutto il paese, senza questo coinvolgimento non si riuscirebbe a fare tutta la manifestazione, insomma. E questo veramente molto la scena propiziatoria, ricordiamo che invece è aperta a tutti naturalmente, basta prenotare cioè, andare sulle pagine Facebook di cui abbiamo parlato prima e che poi rimetteremo anche sulla nostra pagina Facebook. Il sabato 11 giugno è previsto un banchetto del Cavaliere e qui si riconferma quello che dicevo, ci ritroviamo a tavola. Volevi dire qualcosa? Sì, no, praticamente lì ci sarà il sabato, quest'anno ci sarà l'estrazione delle carriere, quest'anno verrà di sabato, il sabato sera, nella piazza principale del paese alle 21.30. Prima ovviamente ci saranno uno stand gastronomico con specialità eccetera eccetera, ma venite e le scoprirete. Bravo. Una mini sfilata, ci sarà una mini sfilata dei rioni e varie figure, Giullino e tante sorprese. Bene. Domenica 12 giugno invece è la giornata vera e propria dove c'è l'evento, inizia presto la mattina verso le 10, indovinate un po', con l'apertura dello stand gastronomico. Però subito dopo c'è la benedizione della giostra verso le 11 e poi il pomeriggio il ritrovo diciamo per la giostra del Sarapino. Diciamo dov'è? È il centro? Diciamo che inizia con la benedizione, che sarebbe la messa, diciamo, dei cavalieri, in cui tutti i figuranti del Sarapino partecipano, più poi dopo c'è la sfilata, il corteo che inizia verso le 4:30, le 5, per arrivare fino al castello, e dove nel castello si svolge la vestitura dei cavalieri. Ogni capitano chiamerà i propri cavalieri e li investirà del ruolo di cavaliere del Sarapino. Con l'ape. Dopo da lì c'è il proseguimento del corteo fino alla piazza, e poi ci sarà lo scontro. Se posso aprire una parentesi, sì, perché abbiamo avuto altri ospiti che hanno fatto delle cose in costume. I vostri costumi o i figuranti, sì, diciamo, sono vestiti con vestiti medievali, ma sono di proprietà, tra virgolette, diciamo, del comitato, sì, della manifestazione, sì, sì, o ognuno ha il suo? Sono di proprietà della manifestazione e sono stati fatti, questo ci teniamo a dirlo, con le nostre mani, nel senso che abbiamo una ragazza di Civitella che li disegna e noi, portandogli la stoffa, li costruisce di sana carta. Anche questa è una gran cosa. E sono belli, sinceramente sono ecco, sono può essere belli. Un buon motivo anche per andare a vedere. Arriviamo. Lo stesso burato è stato costruito da noi, l'abbiamo qua il Fabio. Fabio Fagiullino, il custode, il burattino, nel senso che costruisce il burattino. Senso buono, senso buono. Tra l'altro ho sentito alcune donne che ne parlavano, anche affascinanti. In primis. Allora, e poi finalmente c'è il banchetto della scusate, la giostra del Sarapino alle 18 sì, la sera del 12 giugno. Dopo il Sarapino si finisce in bellezza con un festeggiando nella piazza tutti insieme. Qualcuno vince, quindi bellissimo. A proposito di qualcuno vince, nel librone, e qui faccio tu il librone, chi è che spiego, il librone sarebbe l'albo d'oro, perché come abbiamo detto prima esisterebbe anche un glossario del Sarapino che non facciamo in tempo a vuoi dare un accenno, qualche cosa librone, librone. No, del glossario, sì, sì, del glossario, il librone, sì, è una delle parole del glossario non del Sarapino, capito, ma perché non siamo nuovi a queste cose, vero Marci? Ecco, e tra appunto dicevo è l'albo d'oro, chi è, qual è il rione che in questo momento ci sono due rioni in testa a pari merito, sì, San Francesco, abbiamo, e appunto, abbiamo due cavalieri qua presenti e Porta Retina, e due lanci a testa, quindi le prime quattro edizioni della nuova era. Voi mi dite che Porta Senese e la torre ancora a bocca asciutta. C'è un termine per questa, la E. Alla E, aspettate, sì, fermi che vado. Esimo, il rione con meno vittorie. Rido, ma io ora parlo. Ma fai bene a ridere. No, sì, lo so. Parlo con Fabio, che ancora ti capisco. Perché nelle mie. Se resiste Enzo. Secondo voi, perché quest'anno faccio il giudice? Perché almeno ti vuoi un po' estraniare, eh? No, forza Torre. Bravo. Allora, siamo arrivati alla fine, anche stasera, della puntata. Ci siamo dimenticati qualcosa, volete dire qualcos'altro? Ce ne sarebbero tante di cose da dire, adesso ho pochissimo tempo, non lo so, possiamo accennare, sì, al Masgalano, forse? Proprio Masgalano, sì, dai. Ecco, ok. Okay. Il Masgalano, questo l'abbiamo ripreso dal lessico del Baio di Siena questa volta. Attingete ovunque. Esatto, ci attingiamo ovunque, questo è un new entry degli ultimi due anni. Sì? È semplicemente il premio che viene attribuito al rione più... galante, elegante, quello che si comporta meglio durante la manifestazione, si comporta meglio nel senso che riesce a dare qualcosa in più lustro, esatto, riesce anche a fare fatto qualcosa, qualcosa di... viene valutato nelle tre giornate comunque, sì, non solo nella sfilata e nella giornata, certo, ma è stranissimo, certo, Enzo, che Civitella non è lontano da qui, è a distanza di pochi chilometri, è totalmente diversa, praticamente siamo i barbari. E vabbè, confronto allora. Tra l'altro, se fai 5 hai fatto un pomodoro, cioè no, hai preso il pomodoro. Ecco, scusa, che punteggi di solito vengono fatti? Capita di fare 5? Il 4 è più classico. 4 è il 2. Il 4 è il 2. Al 5 che succede? Festa. Fai 5. Al 5 si alza le mani. Al 5 fai festa. Pensavo dicesse vinciamo noi. Oh, finalmente ci siamo tolti un problema. Aspetta, di qualcosa. Ecco, ci siamo tolti un problema. Finalmente andremo a voce libera. Bene, la nostra trasmissione con l'invito a partecipare al Sarapino di giugno a Civitella in Val di Chiana con i nostri amici volge al termine. Ringraziamo quindi Marco Balò, Fabio Coradeschi e Daniele Tiezzi che sono stati con noi stasera in rappresentanza. Grazie di averci sopportato. A voi. Salutiamo. L'appuntamento sarà sicuramente al Sarapino, questo è fuori di dubbio, certo, ma anche a venerdì prossimo per quanto riguarda Piazza Alta. Vogliamo ringraziare anche gli appuntamenti. Lo diremo un'altra volta. Curati da Simone One. Seguite la pagina di Facebook, troverete tutto in Piazza Alta. Ma andiamo con la sigla e vi ringraziamo tutti, capito? Bene. Ma funziona così. Era lì, È nella sigla, okay, si ringrazia. Ciao! Avete ascoltato? Piazzalta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla conduzione tecnica Simone. Une. Alle riprese video Valeria. Eria. A venerdì prossimo. Ossimo.